Zot. Zot. Fulminati in azienda. Centri, la gente non mi capisce, non afferra. Sono 3 giorni che abbiamo lanciato il programma Zac Dacci un Taglio. Non c'è ancora il giusto impegno nella ricerca del taglio dei corpi. Abbiamo tagliato la carta igienica, amo torta e dessert da mensa. La gente si è impanicata. Se ruba le gomme, se nasconde la pinzatrice, se ricicla il caffè. Sì, ma non mi segui, Centri, non mi segui. Dobbiamo trovare i costi nascosti, quelli che non si vedono ma ci sono. Ti faccio un esempio, te la butto lì. Tagliamo i riscaldamenti a giorni alterni. Fa troppo caldo negli uffici. Poi l'aria è malsana e la gente si addormenta. Giusto, giusto. E d'estate veniamo in mutande, così famo a meno d'aria condizionata e si può respirare quella naturale che è meglio. Bravo, bravo. Vedi che belle idee. Vedi che ci sei, che sei sul pezzo. Non sei tutto da buttare via. Dammene un'altra di idea. E poi, che ne so, se taglia la consulenza. Come? La consulenza? Detto, la consulenza costa un botto. Sì, ma la consulenza è strategica, Centri. Te pareva. E quindi che famo? E quindi fai un bel brainstorming con le tue persone e caccia fuori 2 o 3 idee. Ricordati, Centri, lateral thinking. Do you remember? Sì. Do you remember che mi persone sono tutte in mobilità? Stop assunzioni. Ci sono rimasti solo gli stagisti. Meglio, meglio. Gente giovane, motivata, carica. Sì, giovane una volta. Pacco sarà al 30° stage, c'ha 40 meglio, anni. Meglio, meglio. Perché ha più esperienza e esperienza da vendere. Pensa positivo, Centri. Vabbè, poi chi li guida sti stagisti? Io non c'ho tempo, gli mettiamo a capo un altro stagista, che famo? Uè, la seconda bella idea in un giorno, cos'è oggi? Festa? Certo che è bello, uno stagista a capo degli stagisti. Famo Pacco, che è il più anziano? E famo Pacco, nominiamo stagista senior, gli facciamo un bel bigliettino alla visita e gli diamo il compito di guidare la task force alla ricerca dei costi nascosti. Ascoltami, Pacco, domani ti chiama il personale, stavolta te sta a passare il treno, Lo devi pia, Pacco. Ma me assumi, allora? Ma te sei montata la testa? Pacco, assunzioni zero assumono te, ma per piacere, Però te fanno diventare capo, pensa un po', te danno pure il biglietto da visita e delle risorse da comandare, Il tuo compito sarà trovare i costi nascosti dell'azienda. Ah, che bello, per la prima volta dopo 30 stagi in sta azienda finalmente riconosci i miei meriti. Esatto, Mi raccomando, preparati bene per il colloquio con quelli del personale, cos'è come sono, Me lo anche comprare il libro, dottore, come fare un colloquio efficace in 30 secondi. Famo anche in 20 secondi, Basta che dici di sì sempre a tutto. Adesso chiamo anche mia mamma, che dago la notizia che divento capo e che dico che per festeggiare domani la porto a cena fuori. The McDonald's. Ecco, bravo, da McDonald's, bravo. Una domanda, dottor, ma adesso che divento capo, mi fa sto contratto a tempo indeterminato? Non ci siamo capiti, Pacco, non te monta la testa, non t'assumono manco a tempo determinato, Ringrazia che te fanno stagista senior e te danno il bigliettino. Stagista senior? Orca ciò, questa sì che è un'opportunità, sì. Gli parli tu o gli parlo io a quel deficiente? A chi? Come a chi? Ha chiamato adesso la segretaria dell'amministratore delegato. 2 stagisti guidati da Pacco hanno voluto vedere tutte le spese della D. Sono giovani, no? Non sono giovani, sono imbranati, c'hanno nella testa i bruscolini, Ma guarda, se per questo mi sono arrivate 250 mail di gente inferocita, perché c'è sta task force dei stagisti che sta a cercare sti costi nascosti e fa domande strane, non si capisce niente. Avanti. Buongiorno, Gavecciamà. Mettete a sede, spiegaci che sta a combinare. Ecco la stampa in Excel di tutti i 200 costi nascosti, come richiesto in meno di 1 settimana. Non crederemo all'amministratore delegato, se appassionate ostriche. Le ostriche, ma pensa un po'. Gavemo calcolato che il magna 50 ostriche al giorno. NCS. Tutti i santi giorni, de lune a venere. Te credo che c'è la gastrite. NCS, non ci siamo. Adesso silenzio e aprire bene le orecchie, per favore. Allora, l'amministratore delegato mangia quello che vuole. Sì, dottor, se i costi nascosti... State zitto. Gli stagisti al loro posto devono stare. Sì, capiamo, la task force che gira. Sì, io vi ho chiesto di cercare tutti i costi nascosti, non di fare tutto questo casino. Sì, però i costi Pacco, nascosti... Pacco, mottaci e te traduco, Pacco, non hai capito niente. Come te lo devo spiegare? Ci sono costi e costi e poi non si parte mai dall'alto, mai. Sì, dottor, ma in alto si arriva, Vieni qua, dammi il biglietto da visita, consulente, via. Non sei più stagista senior, Torni al ruolo di stagista normale. E mo vai. Arrivederci. Vai. E non finisce qui, Centri, non finisce qui. Sai cosa facciamo adesso? Zac, gli tagliamo anche gli stipendi a Pacco e ai suoi stagisti. Non si può fare, Marco. Ah no? E perché non si può fare? È che sono stagisti, non lo prendono stipendio. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.